piacere di lunedì, di giovedì e a volte anche durante la settimana in altre giornate nella sala sotto, nella nostra sede, che sapete essere al piano terra con all'angolo di via Marconi. Questa sera abbiamo con noi Giovanni Accardo, sono particolarmente contenta di averlo qui con noi insieme a Paolo Mazzucato e a Gabriele Di Luca, che ci aiuteranno in questa presentazione del nuovo romanzo, appunto Un diavolo d'estate. Giovanni Accardo lo conoscete tutti, è molto attivo sia nell'ambito scolastico che nell'ambito della promozione della lettura, nell'ambito anche della produzione editoriale. Mi diceva che appunto ha curato anche la parte italiana dell'ultimo libro di Alfabeta, che uscirà a breve. No, è uscito. Che è uscito, perdona, ma che verrà presentato a breve, sempre nel mese di maggio. E ecco, siamo qui molto curiosi di conoscere dalla voce del nostro autore invece il nuovo romanzo, appunto Un diavolo d'estate. La biblioteca favorisce questi incontri e siamo molto contenti di poterlo fare grazie proprio anche all'attività, alla vivacità del panorama editoriale locale, perché siamo convinti che anche questo rapporto umano, questo contatto diretto con le autrici, gli autori, possa essere di grande stimolo per le persone a leggere oppure a continuare a leggere. E la biblioteca ha questo compito di favorire questi incontri. Saluto e ringrazio anche appunto i nostri due relatori, Gabriele Di Luca e Paolo Mazzucato, che ci accompagneranno in questa avventura questa sera. Ricordo che abbiamo un altro appuntamento questa settimana, precisamente venerdì alle ore 18, sempre in questa sala. Ci sarà una conferenza, presentazione anche in occasione del 60° anniversario della rivista Il Cristallo. La biblioteca lo scorso anno si è impegnata ed ha digitalizzato tutti i numeri della rivista, che sono disponibili sulla pagina web della biblioteca, e c'è anche la possibilità di fare delle ricerche tematiche e anche in OCR, cioè digitando una parola si possono trovare le varie pagine dove essa è contenuta, ma soprattutto abbiamo anche operato uno spoglio, quindi per favorire la ricerca da parte degli studiosi. Questo lavoro, ma soprattutto anche tutti i contributi e la storia della stessa rivista, come dell'associazione, sarà appunto occasione di incontro venerdì 10 maggio in questa sala a partire dalle ore 18. E infine vi ricordo un altro appuntamento di lunedì prossimo, che è una presentazione del libro Non con i miei soldi, il sussidiario per un'educazione critica alla finanza. Saranno presenti Baranes e anche alcuni giornalisti, però stiamo ancora attendendo la conferma. Nella sala troverete anche delle cartoline con appunto questi appuntamenti, se avete piacere. Altrimenti ecco, la biblioteca comunque manda di solito delle newsletter informative. Vi lascio subito la parola, anche perché la sala è bella piena, e partiamo subito con questa nuova presentazione. Grazie ancora e grazie a tutti voi. Bene, oddio, c'è molta violenza in questo microfono. Allora, prima di immergerci nel libro di Giovanni, prima di tratteggiarlo, volevo dare la parola a Luisa Maestrello della casa editrice Ronzani, che in qualche modo ha reso possibile questa operazione. Grazie, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io sono Luisa Maestrello di Ronzani Editore, libro della collana Attraverso dedicata alla narrativa contemporanea, che abbiamo inaugurato proprio il 24 aprile, è Il diavolo d'estate di Giovanni Accardo. Noi siamo molto entusiasti, questo libro ci è piaciuto subito perché cercavamo un giallo italiano che avesse delle particolarità e soprattutto un legame forte con il territorio. Sicuramente ne parlerà Giovanni durante la presentazione, qui il legame con la Sicilia si sente, si legge, ma soprattutto si vede. Insomma, lascerai subito la parola perché voglio ascoltare anch'io la storia di come è nato questo libro. E grazie ancora e buona serata a tutti. Ultima comunicazione, quindi, di servizio. Io qui tengo il tempo perché noi siamo sempre esatti, sono le 18 e 12 minuti e alle 19 e 15 noi finiamo. No, quindi stiamo più o meno all'interno di un'ora e ovviamente poi ci sarà spazio come coda della presentazione e sarà spazio insomma per gli interventi del pubblico. Allora io darei innanzitutto subito la parola a Paolo Mazzuccato, che ha un compito difficile, perché quando si tratta di introdurre un libro, per esempio, di saggistica, non c'è problema di fare quello che volgarmente, insomma, poi meno volgarmente si chiama spoileraggio, si può parlare immediatamente del senso, finalità e addirittura anticipare le conclusioni, così uno sa più o meno da quanti piani casca. In questo caso, invece, trattandosi formalmente, e poi anche su questo insomma sono discorsi, sull'entità del genere possiamo soffermarci dopo, ma così esteriormente si tratta di un giallo, nel giallo c'è sempre qualcosa di brutto che succede e c'è un responsabile, e questo responsabile generalmente si rivela alla lettura compiuta, non può essere assolutamente svelato. Quindi Paolo, devi calzare dei pattini e camminare su questo ghiaccio scivolosissimo, senza svelare niente, ma dicendoci tutto ciò che può essere detto senza svelare niente. Allora, possiamo partire dicendo che c'è un morto, però di più non possiamo dire, solo questo possiamo dirlo. E forse potremmo ambientare questo romanzo nel tempo, cioè siamo nel 1978 e siamo in agosto, meglio, in un'estate, poi in agosto succede qualcosa di molto particolare. Possiamo immaginarci un appartamentino, io perlomeno leggendo questo libro mi sono immaginato una casa che è anche un po' un appartamento, dove vive un ragazzo piuttosto giovane, ma non giovanissimo, che si affaccia all'età adulta, tra i 17 e i 18 anni, non è neanche ancora maggiorenne, ma ci sta per diventare, che ha delle sue frequentazioni culturali, legge sicuramente moltissimi libri, ama la musica, per cui vi invito a immaginare un giradischi, magari una piccola radio dentro la sua stanzetta avvolta nella penombra per ripararsi dal caldo, dove ascolta musica e dischi in particolare, un po' li possiamo dire, un po' di Bee Gees, ma c'è anche Umberto Tozzi, c'è Kate Bush, poi qualcuno gli fa assaggiare anche la musica un po' più avanti, diciamo così, nei progetti. E poi c'è questa grande spinta ad uscire dalla stanza, perché il romanzo, non neanche io lo so se è un giallo, è sicuramente un romanzo, di uscire dalla stanza e di andare a conoscere gli altri, a vivere fuori sulla strada con gli altri suoi compaesani, amici, compagni di scuola, con i suoi piccoli pendolari, perché questo ragazzo è nato in un paesino piccolo vicino a Sciacca, ma tutti i giorni prende l'autobus e va a scuola, e sull'autobus incontra persone molto diverse. Per cui io chiederei subito, allora, un po' di elementi ve li ho dati, poi il resto ce li dirà Giovanni. Allora, visto che già l'ha detto un po' Gabriele, questo è un giallo, viene presentato come un giallo, giustamente ha un fortissimo legame con il territorio, che è la Sicilia, però parla tantissimo di un ragazzo, di un gruppo di ragazzi, del loro modo di affacciarsi alla vita, con modo retorico per dire che stanno crescendo e si confrontano con quello che è l'attualità del 1978. Giovanni. Allora, intanto senti. Grazie a tutti per la vostra numerosissima presenza, grazie a Valeria Trevisan e a tutti gli amici della Biblioteca Claudio Augusta per aver organizzato questa serata, grazie agli amici della libreria Ubic, Marcello e Davide, che hanno portato lì una vagonata di libri. Abbiamo fatto una sfida, io ho detto guarda che prima che finisca l'incontro andrai via senza libri, non so se vincerò questa sfida. E grazie a Luisa ed Elsa che sono arrivati da Vicenza per questa prima presentazione, naturalmente grazie a Paolo e a Gabriele che sono stati costretti, invitati da me a replicare una presentazione di esattamente 4 anni fa, quando è uscito il mio libro sulla scuola. Allora, io lo definirei un giallo di formazione. Perché dunque io non sono un lettore di genere e neanche per quel poco che ho scritto uno scrittore di genere, quindi ho mischiato tante cose. È una storia molto lunga di questo libro, potrei tenervi qui un paio d'ore, ma naturalmente non lo farò. Più te lo impedirei. Bravo, grazie Gabriele. Però nel corso di 10 anni, e ci ho lavorato 10 anni, il libro ha subito moltissimi cambiamenti. E durante questi... Non si sente? Sì. voi sentite. E durante questi cambiamenti, diciamo, un po' sono dovute e trovate una lunga lista di ringraziamenti ai tanti lettori che ho avuto, anche di case editrici che erano sul punto di pubblicarlo e che poi non l'hanno pubblicato. La casa editrice che ci è andata più vicino alla pubblicazione è stata la Feltrinelli e poi anche Marsilio. E però tutti insistevano che doveva diventare più un giallo, e questo è tristissimo, perché se non scrivi gialli niente, non va bene niente. E quindi nel corso di tutta queste continue letture, in cui ogni tanto lo mettevo da parte, poi lo riprendevo, alla fine, siccome il morto c'era, allora l'ho smontato e l'ho rimontato, ho cambiato l'intreccio. Così è stato più evidente il giallo. Mi ero rivolta a una editor freelance che lavorava anche per Einaudi. Quando gliel'ho dato la prima volta, ho detto: senti, come giallo alla prima pagina si capisce chi è l'assassino. Quindi, infatti gli ho detto: guarda, io non sono né un lettore di gialli né un giallista, quindi allora poi lavorandoci, insomma, se c'è l'assassino, se, sì, no, se ma per c'è. Dire si capisce subito come sono, insomma, era troppo scoperta la cosa. Allora lavorandoci, ho credo abbastanza mascherato le cose. Riguardo alla musica, Umberto Tozzi e Kate Bush non erano assolutamente nella mia formazione. Era il jukebox d'estate che li mandava e io non li sopportavo, a dire il vero. La mia è sempre stata una formazione rock che in quell'estate, nel corso degli anni, il protagonista in quell'estate poi ha un incontro molto particolare. Quindi è un intreccio giallo, però... Come è nato? È nato da due cose questo libro. C'è stato un periodo, perché adesso non saprei neanche quantificare, in cui io sognavo il diavolo, da ciò il titolo. Allora avevo desiderio di scrivere un racconto un po' visionario, sul genere un po', non proprio horror, ma fantastico, in cui ci fosse il giallo. Però nello stesso tempo, facendo l'insegnante e incontrando ogni mattina degli adolescenti, ho sempre, quando io, adesso un po' meno, però tutte le volte che io entravo in classe, rivedevo in quegli adolescenti me stesso adolescente, me stesso che a scuola si annoiava, che andava a scuola malvolentieri e che aveva un grande desiderio, quello di crescere. E allora mi è venuto così il desiderio di raccontare quella che è stata la mia adolescenza, e mi sembra che siano passati non 40 anni ma molti, molti di più, perché in quegli anni, diciamo, che capitava che un adolescente di un certo tipo, magari che aveva un rapporto un po' conflittuale con il mondo, con l'esistenza, avesse delle curiosità, e queste curiosità lo portavano a frequentare persone più grandi di lui. Ecco perché è un romanzo di formazione, perché la formazione avviene quando tu incontri, si dice non esistono più dei maestri. Io in quegli anni, per esempio, leggevo moltissimo Leonardo Sciascia, che forse è stato l'ultimo maestro che abbiamo avuto, e non leggevo Pasolini. Ogni tanto si dice mancano Sciascia e Pasolini, ma forse ci sono altri intellettuali che ci possono aiutare a capire il mondo in cui viviamo. Allora, ovviamente c'è qualcosa di autobiografico in questo ragazzo, non il nome, si chiama Salvatore Burgio, detto Totò, non la famiglia. Il padre di questo ragazzo è morto in una miniera in Belgio, mio padre è ancora vivo, un insegnante in pensione, quindi mia madre non è la vedova che voi incontrerete nel romanzo. Però di mio c'è questo desiderio che avevo da adolescente di capire. Mi interessavo di politica, leggevo i giornali, leggevo i libri, andavo a chiedere libri al prete, andavo a litigare col segretario del Partito Comunista. E ti chiedevi, visto che questa è l'unica cosa che dice autobiografica, in maniera anche un po' pesante, oltre a sognare di notte il diavolo, di giorno si chiedeva che senso aveva la vita in quel paese, che era una domanda da poco, mi domandavo, però la domanda mi spaventava e allora cercavo di non pensarci, però poi uscivi e andavi fuori. Ecco, questa domanda che parlavo qua all'inizio è una domanda pesantissima, però questo libro, che pure affronta tutti gli snodi, no, i temi della crescita e quindi la scoperta delle cose che anche difficilmente uno affronta, non ha alcuna pesantezza. Beh, grazie. Io ho cercato di scrivere cioè, diciamo che ho lavorato molto sulla scrittura, quindi è il frutto di innumerevoli revisioni. Non so che lettore avessi in mente, in parte me stesso, e quindi ho cercato di un po' mi viene naturale scrivere in questo modo, no? Anche il precedente romanzo, Un anno di corso, ti dicevano che era un libro molto veloce, e mi sono accorto, non so se ne scriverò un altro romanzo in questo periodo, penso che questo, con questo chiuso non, cioè in realtà con Alfabeta stiamo progettando, e già a buon punto, un libro che non sarà un romanzo, che uscirà a novembre, però col, mi sembra di non avere più niente da dire con la voce romanzo. Però le due cose che hanno in comune i due romanzi è questo continuo andare del protagonista, cioè qui il protagonista è sempre in movimento, sempre che cerca, anche nell'altro, no? Era sempre alla ricerca lì di lavoro, qui di dare un senso alle sue giornate, di dare un senso alla sua esistenza. Questo senso a un certo punto crede di averlo trovato quando incontra questi altri amici che vogliono fare l'unica rivoluzione possibile inconsapevolmente, che fanno, che fanno quello di, negli anni in cui va molto di moda la discoteca, sono gli anni della febbre del sabato sera, della disco music, decidono di utilizzare il piazzale che c'è davanti a una villa di un barone. So che la mia collega Barbara vorrebbe che io parlassi a lungo del barone Farina, non so se possiamo parlarne magari dopo. E in questo piazzale uno di loro, il più grande, ha l'idea di organizzare una discoteca all'aperto, per cui una parte del romanzo è ce la faranno a costruire questa discoteca, e poi tutti gli ostacoli che incontrano, perché erano quegli anni in cui non si parlava altro che di rivoluzione. Posso leggere due paginette? Libro tuo. Grazie, vabbè, però chiedo il permesso. Leggo due paginette perché mi sembra che diano molto bene il clima di quegli anni. Allora, il protagonista appunto è in estate, a casa, sta ascoltando la musica. In realtà lui vorrebbe avere tanto un giradischi, ma solo un registratorino. Sta ascoltando i Genesis, una cassetta che ha preparato una sua compagna di scuola, Stefania, di cui lui in qualche modo è innamorato, ma ne ha molto soggezione, ma è un innamoramento forse culturale, politico. E Stefania è la sua compagna di classe, che è la rappresentante di classe, quella politicizzata, femminista. Stefani era la nostra rappresentante di classe sin dalla quarta ginnasio. Era lei che ci guidava durante le assemblee di classe e di istituto. Non era figlia di notai, professori, medici o avvocati, come tanti miei compagni di classe. Anzi, il padre neppure ce l'aveva, perché a forza di asfaltare strade un cancro gli aveva divorato i polmoni. La madre, che stirava in una lavanderia, ogni giorno provava a convincere la figlia a cambiare scuola e accontentarsi di un diploma di maestra o di ragioniera, perché soldi per mandarla all'università non ne aveva, e c'era un'altra figlia da mantenere che frequentava ancora la scuola media. Forse per questo mi piaceva, perché era anche lei senza padre, e anche lei veniva da una famiglia che a stento arrivava alla fine del mese. Più povero di noi in classe probabilmente c'era solo Matteo, ma lui non se ne curava affatto. Certe volte Stefania mi diceva che io e lei avevamo una coscienza di classe, ma cosa significasse esattamente non lo sapevo. Per me significava che eravamo entrambi poveri, mentre la gran parte dei nostri compagni e delle nostre compagne facevamo parte di un altro mondo, quello dei ricchi. E quando era arrabbiata perché aveva questionato con un insegnante o le era andata male un'interrogazione, veniva nel banco dove eravamo seduti io e Matteo e diceva che quelli erano i nostri nemici, indicandoli col dito. Matteo neppure l'ascoltava, non si sentiva minimamente coinvolto in questa contrapposizione che ci vedeva schierate dalla parte del proletariato e contro i ricchi borghesi. Lui aveva la capacità di scherzare con tutti con una naturalezza che mi metteva invidia, e non si vergognava di chiedere un pezzo di panino a qualcuno, visto che il più delle volte non aveva neppure 100 lire in tasca per comprarlo. Però quando ci sarà la rivoluzione vengo insieme a voi, ci assicurava ogni tanto. In quegli anni questa parola, rivoluzione oppure rivoluzionario, era di uso comune tra gli studenti, soprattutto tra quelli più grandi di noi che leggevano i giornali e brillavano nelle assemblee. Ma nessuno di noi, forse neppure Stefania, sapeva cosa significasse veramente. Bene. Allora senti Giovanni, io leggendo il libro sono stato attraversato da diverse suggestioni, e alcune ovviamente di tipo letterario, e alcune invece di tipo cinematografico. Mi sono venuti per esempio in mente due film, uno di Carlo Mazzacurati, La giusta distanza, primo film che mi è venuto in mente, e secondo film che mi è venuto in mente è I cento passi, cioè il film che parla praticamente della vita e della morte di Peppino Impastato. Il riferimento ai cento passi è abbastanza, diciamo, secondo me congruo sia dal punto di vista tematico, anche se diciamo lo sfondo mafioso nel tuo libro è molto evanescente, è proprio uno sfondo anche abbastanza remoto, cioè, ma è abbastanza remoto. Però nel libro, diciamo, nel film sui cento passi, qui c'è una discoteca in mezzo all'intreccio, e nei cento passi c'è una radio, no? E sia la discoteca che la radio sono elementi, diciamo, di forte sprovincializzazione, cioè c'è questo tema della remotezza del luogo, della Sicilia, quasi un po' una specie di, invece che far west, far south, no? Il far south che deve cercare invece di diventare più prossimo a un modello così di civilizzazione che il protagonista Peppino dall'altra parte e in questo caso Totò anelano. Questa è una prima parte e mi piacerebbe sapere da te quanto gravava in quegli anni il senso di essere periferia di una periferia. E l'altro riferimento, se vuoi lo posso anche sgranare, però te lo anticipo, nel film di Mazzacurati, che è un proprio anche in quel caso una Bildungsgeschichte, una storia di formazione, perché anche in quel caso c'è un 17enne, un 18enne che si affaccia diciamo con prepotenza alla vita e alla consapevolezza di ciò che è, e anche in quel caso si parla di un contesto provinciale retrivo che però lì è nel nord, è un piccolo paese del nord, mi sembra più o meno del Veneto, sì, o tra Veneto e Emilia, insomma, sì, in ogni modo Veneto, in cui anche lì succede qualcosa di brutto, di molto brutto, e anche lì girano dei pregiudizi, e poi in qualche modo il protagonista deve farsi largo attraverso questi pregiudizi per trovare la propria strada. Ecco, mi piacerebbe che tu mettessi a fuoco, e già quando dico mettere a fuoco sto quasi in qualche modo svelando qualcosa, ma vabbè, ma l'incendio c'è dalla prima parte, non ho svelato niente, sì, comunque sì, questa messa a fuoco da un lato appunto del tema dello scappare da un luogo che restringe le possibilità vitali dei protagonisti e di un protagonista in particolare, e dall'altro questo giungere a se stessi, che nel caso di Mazzacurati è chiaro, qui com'è appunto, cioè qui il venire a se stesso del protagonista come si configura? Allora, hai nominato la radio, quelli sono gli anni in cui nascono le radio libere. Infatti a un certo punto nel romanzo il narratore scopre che la prima idea di Ignazio non era tanto di fare una discoteca, ma di aprire una radio libera, solo che era più complicato, servivano più soldi e quindi l'idea era stata abbandonata. Io mi ricordo veramente che in ogni paesino c'era una radio. La prima volta che il protagonista, anzi Ignazio, che è il più grande del gruppo, quello che guida il gruppo, quello a cui viene l'idea della discoteca, rivolge la parola al giovane Totò, è il 9 maggio del 1978, cioè quando viene trovato il corpo di Aldo Moro, ed è il giorno in cui viene trovato Peppino Impastato. Io dico questo, quando ci fu la morte di Peppino Impastato, io ricordo un articolo sul Giornale di Sicilia, diceva di questo ragazzo presentato come un extraparlamentare, lo era di Democrazia Proletaria, che era morto, non va? Che adesso va di più, allora stavo usando i vostri microfoni, e praticamente si diceva nel giornale che era morto mentre preparava un attentato sulla linea ferroviaria, e quindi un po' come, no, Feltrinelli era saltato in aria. La cosa non mi ricordo che ci fece particolare impressione, fu una cosa così priva di significato, fu dopo, e ovviamente grazie ai cento passi soprattutto, che poi abbiamo scoperto io anche un po' prima, però in quel momento la morte di Peppino Impastato non rappresentava nulla. E, diciamo che questi quattro ragazzi, questi quattro giovani, età compresa tra i 17 e i 24, 25 anni, fanno qualcosa di rottura, rompono gli schemi, i costumi di una realtà che è una realtà che è un po' codificata, no? E, se vuoi, forse per certi versi il libro un po' schematico, ma era così che funzionava in tutti i paesini del sud, era tutto preciso e organizzato, c'era il sindaco che aveva il suo potere, il maresciallo che abbozzava, c'era in questo caso il cavaliere Casamassima che gestiva le elezioni della Democrazia Cristiana, era tutto, e c'era il Partito Comunista che stava a guardare sostanzialmente, ed ecco perché il protagonista litiga col segretario, perché loro erano sempre lì a non si sa fare cosa. Perché sono spariti, forse dovevano fare qualcosa, lo dico da militante, non sono mai stato militante di nessun partito, elettore, insomma, che si muoveva in quell'area. E quindi rompono un po' gli schemi e infatti incontrano un sacco di ostacoli, anche inaspettati. E poi c'è questo tema, si incrocia con quello come dice Carmine Abate, del viaggio per costrizione, cioè c'è il giovane che sogna la città del nord, l'università del nord, come una liberazione, come una crescita, come un'opportunità, ma poi ci sono i contadini che sono stati emigrati, che loro dicono: no ragazzi, noi non vogliamo più andare via, noi abbiamo già sudato, siamo stati in Germania, siamo stati in Svizzera, siamo stati maltrattati, noi siamo stufi adesso di emigrare, no? E quindi c'è questo doppio binario. Allora, una delle domande a cui volevo rispondere, poi l'ho lasciata aperta, è questa: andare via o no? È un tema di cui chi come me è andato via ogni tanto si trova così a rifletterci, a parlare. In tanti siamo andati via, adesso io non so se che cervello ho, la famosa fuga dei cervelli, insomma un piccolo cervello ce l'avrò certamente anch'io, però poi ti dico: ma tu fai un sacco di cose a Bolzano? Eh sì, però io a Bolzano ho trovato un ambiente che mi permette di farlo. Quando ho provato a farlo in Sicilia, dopo un po' mi è venuta l'ulcera, e quindi io sono. Hanno detto alcuni che questo libro è un atto d'amore per la mia terra, lo è, un atto d'amore alla mia terra, accompagnato però da una forte critica, no? Proprio perché la ami la critica, altrimenti sei indifferente. E allora io quello che dico ai miei amici, poi questo libro lo presenterò anche al paese dove in qualche modo è ambientato, anche se non mi ha mai nominato, poi vi dico se ne sono uscito vivo, vi dirò. E quello che dico è che è ora di smetterla di lamentarsi, il vittimismo, di cominciare a darsi da fare. Allora, noi che siamo andati via, dovremmo tornare forse per fare qualcosa? E allora c'è questo tema, no? Andare via. Peppino Impastato, per esempio, è morto perché ha lottato lì, è una scelta molto molto coraggiosa, anche se lui è stato forse troppo ingenuo a un certo punto, perché sfidare la mafia così, in maniera così palese, in maniera così provocatoria, in quegli anni lì soprattutto, non poteva che portarti a quella fine, forse c'erano altri modi. E nel mio libro questo tema, andare o restare, attraverso un po' tutto il libro, e anche in fondo la morte di uno dei protagonisti rappresenta un po' questo crinale, no? E qual è alla fine la strada giusta. Io ho lasciato un finale aperto in qualche modo, però questo finale aperto io l'ho visto come un finale positivo, però sarà il lettore. Anche in un'intervista mi hanno chiesto di dire qualcosa in più del diavolo, io non dico nulla del diavolo, ognuno ci veda quello che crede col proprio immaginario. Vorrei che fosse una parte, non perché non è realistica, che però come dire, la letteratura deve parlare all'immaginario, suscitare domande. Mi piacerebbe che il lettore, finito di leggere il romanzo, si portasse dietro qualcosa e ci pensasse ancora un po'. Questo diavolo c'è, non è solo una finzione, è proprio una realtà che insegue un po' il protagonista, che è Totò. Però io chiedo prima di tutto una traduzione, cos'è Lupedi Cutulino? Compare a pagina, non me lo ricordo, ma lo sono sentito. Sì, allora, su sto Pedro... Questo breve perché poi mi serve per introdurre quello. Sì, su questo Pedro Cutulino c'è un dibattito, perché ci sono due o tre versioni. Io ho cercato nei dizionari di siciliano che ho a casa e non l'ho trovato. Però mi piaceva molto, lo diceva un mio amico, per dire di uno che aveva sempre voglia di viaggiare, di fare, di, non riusciva mai a stare fermo, no? E quindi doveva sempre muoversi. E questo è il piede di Lucio, che gira con una macchina che nessuno di loro si poteva permettere. Però a proposito di provincia e di provincia da cui scappare, in realtà la provincia che c'è qui in questo libro non è affatto odiata, anzi, i ragazzi la amano. Sì. E la cosa che forse rende sopportabile o tollerabile questa provincializzazione di cui diceva poco fa, è il fatto che questo ragazzo ha una comunità, cioè il Totò non è mai solo, è solo perché lui parla, pensa, ragiona, riflette su se stesso, ma ha sempre qualcuno con cui confrontarsi, per cui con lui c'è Ignazio, c'è Michele, c'è Siso, c'è mio preferito che è Matteo, che lo possiamo sottolineare, ci sono le ragazze, Lucia, Enza, cioè è proprio veramente un gruppo di persone, anche di estrazione sociale molto diversa, perché c'è il ricco, Lucia è un ricco, però non si vergogna di stare con coloro che hanno pochissimi soldi, c'è il figlio del proprietario terriero, c'è il figlio dell'operaio, c'è la ragazza che cerca di affacciarsi. La cosa che in questo romanzo c'è ovunque, in ogni pagina, è la coralità, il senso di comunità. Sì, in quegli anni c'era un fortissimo senso di comunità, e anche la vita politica era una cosa molto di comunità. In questo piccolo paesino sostanzialmente c'erano tre partiti, due più grossi erano il Partito Comunista, che era il partito dei contadini, degli operai, e poi la democrazia Cristiana, e a partire dalla fine degli anni 70 comincia a crescere il Partito Socialista. Ma c'era il prete, cioè ognuno aveva un suo ruolo, c'era il maresciallo, ed era una comunità che da un lato era una comunità protettiva, però dall'altro lato appena tu uscivi un po' fuori dai giochi eri messo da parte. Però ti faccio una provocazione, forse una società così ordinata, che aveva i suoi ruoli, sì, la fiera, il cavallo, il re e la regina, era paradossalmente una società in cui era forse più facile fare una rivoluzione, visto che tu hai citato i tuoi studenti di oggi. Allora, io ti dico una cosa, poi questa piccola comunità da cui io sono andato via nel 1980, prima mi sono trasferito a Sciacca, poi a Padova, e negli anni poi si è sfaldata, e questa comunità sfaldata è venuto meno, c'è stato il crollo dei partiti e anche il prete ha perso il suo ruolo, e in questo paesino è cominciato ad arrivare gli stupefacenti, gli arresti, cioè c'è stato un degrado umano molto forte. Quella crescita culturale che il protagonista sognava in un paese che non aveva una biblioteca, una libreria, non aveva niente di niente, e che loro sognavano di far crescere avendo come modello una città del nord, si è sfaldata, e quindi questo sfaldarsi della comunità, noi qui è un tema nostro, questo è la comunità della Heimat, però sai che è un'arma a doppio taglio, cioè da un lato ha un che di protettivo, però dall'altro lato quando esci poi da certi schemi, soprattutto dagli schemi del potere, perché in ogni comunità c'è un potere, allora appena cominci a uscire dagli schemi poi vai verso la fine, non a caso c'è l'incendio che brucia tutto. Sì, allora io adesso, prima ho citato il cinema, adesso vorrei invece virare proprio verso la letteratura, ma perché mi sono venuti in mente, come dire, prima parlavo di Mazzacurati e dei Cento Passi, qui mi sono invece venuti in mente due autori, i quali però ne possono gemmare ovviamente molti altri. Il primo per esempio che mi è venuto in mente è Francesco Orlando, con un piccolo romanzo che non so se tu hai letto, che si chiama La doppia seduzione, e è un romanzo veramente notevole, notevolissimo, un racconto lungo che parla, guarda caso, di adolescenti, e parla di adolescenti in Sicilia durante una certa estate dove maturano, diciamo, delle cognizioni di tipo altro. E l'altro autore ovviamente è Vitaliano Brancati, perché in Vitaliano Brancati è disseminata tutta una sensualità, se vogliamo anche un po' non stereotipata, ma comunque ben marcata, che fa pensare alla Sicilia, a tutti quelli che non sono nati in Sicilia. Tutto ciò si deposita in un lavoro di scrittura che io, con grande piacevolezza devo dire, con grande soddisfazione mentre lo leggevo, notavo che andava a riempire quello che una volta così molto amichevolmente ti rimproverai riguardo al romanzo sulla scuola. Cioè, nel romanzo sulla scuola ti dissi, mi ricordo, te lo dissi, è stranissimo, tu hai parlato di una classe che potrebbe essere ovunque, cioè il romanzo è ambientato a Bolzano, ma di Bolzano non c'è quasi mai traccia, qui invece c'è una traccia cospicua, continua, ed è veramente un romanzo siciliano fin nel midollo. Questo secondo me fa bene alla scrittura, e fa bene alla scrittura perché ovviamente ne sollecita tutto il potenziale visivo, cioè siamo di fronte veramente a sequenze cinematografiche. Il film interiore che uno si fa quando legge è molto importante per chi legge. Qui appunto ti volevo chiedere innanzitutto se scrivendo hai fatto un corpo a corpo, perché tu sei un esperto di letteratura, ti sei posto il problema dell'angoscia dell'influenza, no? Perché Harold Bloom diceva angoscia dell'influenza, il fatto che da autore siciliano vai a metterti in una tradizione ingombra di personaggi estremamente importanti. Io credo che, non so, magari sono ignorante, ma penso un autore molisano ha meno problemi, un autore siciliano ha grossissimi problemi, perché è veramente inquinato nel senso positivo di un sacco, cioè come ti muovi vai a sbattere contro un genio, e quindi inserirsi lì è più problematico. E dall'altro ti volevo chiedere questa capacità che tu hai proprio di rendere la sensibilità delle cose, ha a che fare veramente proustianamente soltanto col materiale mnemonico, per cui tu, recuperando il tempo passato, riesci a presentificarlo, e quindi fai un'operazione, no, da emigrato, da intellettuale esportato, che però riesce a parlare quasi soltanto se accende la dimensione della memoria, mentre se dovessi andare in presa diretta sulla realtà che ti circonda, questa vena letteraria non sarebbe stata sollecitata. Scusami questa, come dire, enciclopedica domanda divisa come sempre in due parti che a loro volta contengono scatole cinesi, ma io sono una testa complessa. E per questo mi piace. Beh, oltre che per il fatto che sei un intellettuale importante. Cioè. Dunque, senti, il primo autore che io avevo in mente e da cui in qualche modo arriva il titolo è Cesare Pavese. Tutti i libri di Cesare Pavese c'è questo tema sempre di un adolescente e un adulto, no? Quando lo stavo scrivendo non riuscivo a trovare un titolo. Il titolo me l'ha suggerito una scrittrice, Antonella Cilento, perché diceva: guarda, c'è il diavolo, c'è l'estate, e c'è un bellissimo racconto lungo di Cesare Pavese che è Il diavolo sulle colline, no? Quindi in mente avevo sicuramente Cesare Pavese, e ho letto molto, ho apprezzato molto, ho fatto anche una volta un corso su alcuni autori della letteratura comica italiana a Lupade, avevo fatto una lezione anche su Vitaliano Brancati, però mentre lo scrivevo non avevo in mente Brancati, e avevo in mente per esempio un bellissimo romanzo che però non ricordo come si intitola, questo momento, di un altro scrittore siciliano poco noto, Ettore Patti, ed è un breve romanzo erotico in cui il ragazzo, un adolescente, si innamora della zia e ha il suo primo rapporto sessuale con la zia, ed è veramente di una potenza erotica notevole. E poi un altro scrittore che io amo molto, purtroppo secondo me ormai dimenticato, è Vincenzo Consolo. Per l'uso che fa della memoria, del dialetto, quindi quando mi hanno chiesto se avevo in mente Camilleri, devo dirti per esempio, Camilleri è uno scrittore poco amato in Sicilia, soprattutto in provincia di Agrigento, perché ci sentiamo l'artificiosità della lingua, la sua è una lingua molto costruita, lui è un grande studioso di dialetto, ha tutti i dizionari storici della lingua siciliana, grandissimo scrittore naturalmente, che io ammiro tantissimo anche per la sua posizione intellettuale, però io sentivo molto più, nonostante non mi piaccia molto la letteratura della Sicilia barocca, quel gruppo che ha come capostipite Lucio Piccolo, Tomasi Lampedusa e Francesco Orlando, che era appunto un loro allievo, no, di cui parlavi prima tu, però in Consolo c'è un uso del dialetto che è molto carnale, molto forte, molto cioè mentre il dialetto di Camilleri io lo trovo freddo, artificioso, quello di Consolo proprio entra nella materia, è molto materico. E poi mi erano piaciuti due scrittori poco conosciuti, uno sicuramente ignoto e più, che si chiama Antonio Russello, che faceva l'impiegato di banca, viveva mi pare a Castelfranco Veneto, è stato scoperto dai veneti, quindi lo ringrazio. Infatti ho detto: ma voi siete di Vicenza, cosa vi ha colpito in questo romanzo siciliano pieno di dialetto? Questo è bellissimo, no? Che ecco, Antonio Russello ha scritto dei libri molto belli, il più bello è La luna si mangia i morti, ed è molto visionario anche lì, non sa qual è il confine tra realtà. E un altro che mi piaceva molto quando scrivevo questo libro, Giuseppe Bonaviri, quindi avevo una mia rete di scrittori, ma mi interessavano meno. Ho passato l'adolescenza, gli anni dell'università, ogni tanto leggo e rilego, naturalmente a leggere Leonardo Sciascia, che è un autore imprescindibile, però per la mia scrittura no. Leonardo Sciascia ovviamente è uno scrittore molto illuminista, razionalista, a me piace di più invece la scrittura che è un po' sul crinale, realtà, visionaria, con dei tratti di evanescenza. E questo per esempio in Vincenzo Consolo c'è molto, anche la lingua molto, molto sovraccarica, e quindi da quella Sicilia lì ho preso molto, e anche questo gusto di, mi fa piacere che tu l'abbia detto, di costruire con molta attenzione le scene, i colori, no, ho lavorato moltissimo sui colori, che sono poi i colori dell'estate, la terra, il giallo, le stoppie, il nero degli incendi, il cielo azzurro solcato dagli uccelli. Guardate quanto è bella sta copertina. Diciamo, il progetto grafico è di un grande illustratore, Roberto Abbiati, che ha progettato la grafica della collana e anche questa copertina con questo rapace che proprio indica la minaccia che è anche insita nel titolo, questo diavolo che rappresenta una minaccia, c'è veramente, lui lo sta sognando, è una presenza fisica, è una visione che ha quando si sente inseguito, ma chi lo sta inseguendo veramente? E poi siccome la tragedia si consuma, allora era il diavolo che cosa? Allora, che Camilleri non sia simpaticissimo, forse in fondo neanche a Giovanni, posso dire che è testimoniato dal fatto che i Montalbano, che compaiono in questo romanzo, sono antipaticissimi, sono i cattivi, sono alcuni. Guarda, cattivi. Lì è stato il mio inconscio, probabilmente, non è consapevole, però non è una cosa consapevole. Questo va detto. Allora, dopo tutte queste giuste riferimenti letterari, perché Giovanni, come ha detto, è veramente un conoscitore, insomma, della letteratura, io vado un po' anche nella canalità, perché lo ha detto prima, questo romanzo parla anche dell'incontro con l'Eros. E io devo dire una cosa: normalmente dai romanzi degli ultimi anni la figura degli uomini esce sempre piuttosto male. Questo è un romanzo piuttosto maschile, ci sono le donne, c'è, l'abbiamo detto, Stefania Cannizzaro, che è la dura e pura, c'è anche Enza, che rappresenta in qualche modo uno stereotipo di donna siciliana chiusa in casa, chiusa forse dai suoi genitori più che altro, e poi c'è Angela Cucchiara, che è la donna, proprio la femminilità, che quasi accoglie il ragazzo nel mondo degli adulti. Allora io, visto che la canalità è uno stereotipo della Sicilia, voglio chiederti questo, perché non è mai facile parlare di questi temi, raccontarli e descriverli con alcune parole che devono dare sensualità ma non devono mai essere volgari, e in questo libro ci sono alcune scene molto scabrose. Sì, è per tutti, no, diciamo, questo sono i difetti del fatto di non mettersi d'accordo prima, questa domanda la volevo fare io. No, allora la riformuli diversamente. No, però come dire, dare il là su questa, su questa, su questa Angela, devo dire, io generalmente quando siamo rimasti affascinati, quando io generalmente leggo un libro non interloquisco con l'autore fin quando non l'ho letto, nel senso non sono di quelli che ti bombarda di messaggi per dire ho capito questo, ho capito quello, spiegami, dimmi, poi niente. Però devo dire che dopo le prime scene in cui compariva questo personaggio, quasi istintivamente ho dovuto mandare un messaggio a Giovanni dicendo: questa ti è venuta proprio bene, cioè questa roba qui ti è venuta proprio bene, e mi ha fatto di nuovo, come dire, mi ha riaperto una fuga di riferimenti che però questa volta veramente non ti svelo, mi fermo. Però a questo punto c'hai due domande sullo stesso tema, sarà difficile che tu evada questo. La prima cosa che dico è che la mia editor Sara a un certo punto mi ha tagliato due o tre scene e ha detto: senti, o di sesso se ne sa scrivere o è meglio tagliare, cioè mi ha ammazzato. Io pensavo di averle saputo scrivere, invece voi mi avete riscattato, forse perché non avete letto quelle scene, magari erano venute proprio male. Una in particolare, dico peccato. Ma allora, Angela, ecco, io non so da dove nasce, penso solo dal mio immaginario, calato nell'immaginario di un adolescente degli anni 70 in un paesino di 1500 abitanti della Sicilia. Qui sì c'è Brancati, però inconsapevolmente, cioè nei personaggi di Brancati l'eros permea ogni cosa. A un certo punto mi pare che sia Brancati a dire che Verga definisce i siciliani ingravi da balconi, perché stavano sempre lì, no? a camminare, a guardare in alto per guardare le donne. Ecco, in questa comunità in cui io ho vissuto dai 5 anni e mezzo fino a quasi 18 anni, proprio perché era una comunità molto repressiva, una comunità dove le donne non entravano al bar. Adesso i musulmani sono qui, no? Sono venuti a portare l'inciviltà. Allora, le donne non entravano al bar, mia nonna non usciva di casa senza il fazzoletto nero in testa, mia madre non andava in chiesa senza il fazzoletto in testa, no? Cioè delle tradizioni molto forti, molto consolidate, e una società molto matriarcale per certi versi, ma maschilista per altri. E quindi l'educazione erotica che noi avevamo era fatta di una serie di racconti che per lo più arrivavano in estate con quelli che arrivavano da Torino, da Milano, dalla Germania, e ci raccontavano di quelle imprese erotiche che poi dopo abbiamo scoperto erano tutte inventate, nessuno di loro aveva mai fatto quello di cui parla. Quindi era immaginario che alimentava altro immaginario, no? E quindi in questo immaginario la cosa più elettrizzante, più eccitante era avere un rapporto sessuale con una donna sposata. Allora, questa era una specie di refrain ossessivo, no? Adesso vi potrei raccontare delle cose, ma sarebbe poi te le racconto dopo a cena, sarebbero troppo imbarazzanti da raccontare, cioè, ci potrei scrivere forse un altro romanzo. Ma veramente di quelle cose, di quelle serate passate a sentire di quei racconti, di quelle. E a un certo punto tu, cioè, io non so a che età ho capito cos'erano le mestruazioni, cioè, perché da quello che ti raccontavano poteva essere qualunque cosa, avevano un potere pazzesco. Cioè, una donna con le mestruazioni, se dava l'acqua alle piante la pianta seccava, se preparava il passato del pomodoro veniva acido, cioè aveva un potere pazzesco. Poi si diceva che se una donna voleva far innamorare un uomo doveva usare un filtro fatto col sangue mestruale. Allora ti dicevano: perché lo vedi il tipo che fa, vedi perché è ridotto così, perché, cioè, c'era una paura, cioè era un eros e il diavolo, capito? Per cui in tutta questa comunità, allora, quale poteva essere il sogno di un ragazzo di quell'età? Avere veramente, provare veramente cos'era il sesso, no? E secondo me entrambi i personaggi, il ragazzino e la donna che ha 10 anni più di lui, sposata, che per lui la sente molto più adulta, no? E hanno alla fine un rapporto molto tenero, non c'è nulla di alla fine, in qualche modo, lui capisce che tutti quei racconti l'hanno portato completamente fuori strada, che lui non ha nulla da spartirlo. C'è un'altra scena che a me è piaciuta molto, me la volevano tagliare, ho detto no, cioè perché sta editor, poi parliamo del barone Farina, Barbara, e mi voleva tagliare, no, dico questo episodio, quando Totò insieme a Siso, i quattro che hanno organizzato la discoteca sono Totò, Siso, Ignazio e Michele, e poi c'è questo personaggio Lucio. Allora Lucio deve andare in un paesino vicino, deve andare dal medico, hanno del tempo, allora lui propone a Siso e a Totò: vi porto da una prostituta di quel a pagamento. Cioè, Totò sembra una cosa, cioè, completamente fuori dai suoi schemi, no? E loro lo prendono in giro perché lui non ha il coraggio di andare con questa prostituta. Anche questo fa parte della formazione. Lui è in testa Angela perché l'eros è qualcosa invece di diverso, cioè quella è mercificazione di tutto, di te, del corpo della donna. E allora lui in qualche modo si innamora di Angela e lo capisce quando succede un episodio che non possiamo rivelare, i lettori devono leggere, perché lui capisce. Poi sta Angela, a un certo punto comincia a mancargli, e Dan, Angela, non dico come, cosa, è il personaggio finale del libro, e io lo sento come una vittoria sua. Lei alla fine è riuscita a fare quello che voleva fare, nonostante fosse una donna segregata in casa, prima dai genitori e poi dal marito. Quindi è un romanzo maschile, ma questa figura femminile, sì, è veramente una gran figura. Grazie, ti ringrazio molto. E dopo, temevo di invece non avere. Vedrai quanti libri vendi dopo questo che abbiamo raccontato. Il barone Farina. Allora, la mia editor dice: sto personaggio lo devi togliere. No, ha detto ok, allora il libro io lo tengo nel cassetto e lo lascerò in eredità a mia figlia. Ma in cui questo editor? Perché a questo punto non c'è Sara, è a Rovereto. No, possiamo chiamare e mettere in viva voce. Allora, la villa nel cui piazzale costruiscono la discoteca è di proprietà del barone Giuseppe Antonio Farina ed è l'unico personaggio realmente esistito. Non si chiamava Giuseppe Antonio Farina, si chiamava Giuseppe Antonio Musso, nato a Villafranca Sicura in provincia di Agrigento, dove io ho vissuto dal 1968 al 1980, è morto nel 1922. Suo padre era un ricco feudatario molto cattivo, lui invece litiga col padre, se ne va di casa, prima se ne va in America, a New York, soprattutto a Brooklyn, incontra tanti compaesani che sono emigrati. Torniamo al tema dell'emigrazione: cosa facevano questi compaesani emigrati? Quello che fanno questi minacciosi figuri che sostano al parco della stazione, chiedevano soldi, facevano la pipa per strada, e lui capisce cos'è la povertà vedendo questi suoi compaesani. Allora li aiuta, gli offre la cena, poi se ne va a Parma. Parma in quegli anni c'erano i socialisti, forse diventa socialista, questo non l'abbiamo mai scoperto. Fatto sta che le sue proprietà enormi le divide in 135 lotti, 131 lotti, e decide nel testamento di lasciarle in eredità a tutti i contadini poveri del paese, purché onesti, nessuno deve avere un precedente penale. Quindi lascia tutte le sue ricchezze ai contadini, dopodiché lascia una serie di borse di studio e scrive per i bambini e le bambine, per i ragazzi e le ragazze. Io per esempio, quando ho fatto la licenza elementare, ho vinto questa borsa di studio, l'abbiamo vinta mi sembra in due, io e una mia compagna di scuola, poi aveva lasciato una borsa di studio per uno del paese che volesse studiare medicina, una borsa di studio per un siciliano che si fosse distinto per qualcosa di utile all'umanità. Allora, io la sua storia, visto che tutto ruota intorno a quella villa, l'ho raccontata, lievemente romanzata. Io volevo scrivere un romanzo anche su di lui, ma non si riesce a trovare informazioni, forse non sono stato capace di cercare, cioè non me lo potevo togliere questo personaggio, che ogni tanto intervalla gli avvenimenti in maniera realistica e anche un po' visionaria, e siccome tutto ruota intorno alla sua villa, il barone Farina doveva starci. Ti ho convinto, Barbara? Brava. Allora, io ti faccio l'ultima domanda da parte mia, ed è questa: tu hai detto un po' così, forse perché è provato, quando uno scrive un libro, poi generalmente prima di metterne in cantiere un altro, comunque vuole vedere come naviga, no? Come va, però io credo che con questo libro tu abbia Esaurito? No, forse esaurito no, è anche parte della domanda questa, l'uso di questa parola. Comunque hai sistematizzato quello che è il corpus di ricordi formativi che ti hanno poi aperto sicuramente a tutte le esperienze posteriori e successive, e hai fornito un affresco del mondo siciliano che tu hai visto. Allora, dopo aver fatto questa operazione, sentiresti, se la senti, l'esigenza di cavarne un aspetto che ti sembra di aver lasciato in ombra e quindi potrebbe generare ulteriori emozioni di racconto, oppure veramente, ecco, questa tua capacità che qui hai pienamente dimostrato di essere prensile nei confronti della sensibilità del mondo, si potrebbe riversare in un romanzo non della provenienza ma dell'arrivo, per cui insisto proprio su questo. Ci tengo, forse non ci tengo più come ci tenevo un tempo, però il fatto che si racconti anche la terra in cui arriviamo è importante. Quando uno sa scrivere è sempre un peccato che non sfrutti questa freccia. Allora, nel primo romanzo, Un anno di corso, ho raccontato sostanzialmente gli anni dell'università, quindi la formazione universitaria, la ricerca di lavoro. Qui sono andato, ho fatto un passo indietro, ho raccontato l'adolescenza. Adesso dovrei raccontare l'infanzia e poi finisco. Ho capito, quindi non c'è speranza. Non lo so. Mi piacerebbe raccontare Bolzano, però non so da che parte prenderla, per cui quando ho scritto il libro sulla scuola, un'altra scuola con un'ambientazione che ogni tanto si vede Bolzano, in tanti mi hanno detto: ma che interessante quando tu descrivi che città curiosa. Sì. Solo che non so, da un lato non vorrei cadere nel nazionalismo, no? L'italiano. Dall'altro lato purtroppo conosco pochissimo il mondo tedesco e quindi non so, non riesco a trovare il punto di vista. Ecco, e per me è importante trovare il punto di vista, forse perché non ho ancora una storia in mente. Siccome ultimamente mi è venuta voglia di ritornare a vivere in Sicilia, se me ne ritorno a vivere in Sicilia, magari da lì, dalla distanza, dalla giusta distanza, scriverò un romanzo su Bolzano. Devo ancora decidere. Lo schema sempre di intendere qualcosa di lontano, forse è la matrice della lettera. Diciamo che lavorando a questo romanzo mi è venuta il desiderio di ritornare da dove sono partito. È piuttosto complicato, qui c'ho la famiglia, c'ho il lavoro, però se tornerò giù scriverò qualcosa ambientata a Bolzano. La distanza sì, per me è importante, ho bisogno della giusta distanza, e anche io diciamo sono una persona molto nostalgica, quindi mi serve la nostalgia come motore, che come coloritura. Sì, però non si sa, intanto faremo sto libro con Alfabeta, molto, a cui tengo molto, che è un confronto tra due importanti intellettuali che sono Alexander Langer ed Alessandro Leogrande, quello, la distanza c'è tutta, dopo vedremo. Paolo? È importante questa cosa della distanza, che la vita è altrove sempre, no? Sì, non c'è, deve essere raccontato. È il titolo di un romanzo di Milan Kundera, La vita è altrove. Deve fare il titolista allora. È un libro che si legge, l'abbiamo detto, no? Piuttosto piacevolmente, cioè non è difficile, anche se, ripeto, parla di cose importanti, però si ride anche. Ci sono, non abbiamo citato la zia, Annicchia, sì, quella esperta in pozioni, la fattucchiera del paese, la fattucchiera, insomma, la strega. E la cosa adesso è anche una cosa un po' delicata, perché si parla di un uomo che è morto di cancro, di maletinto. Sì. Però, lo zio Ciccino, a cui non roviniamo niente, insomma, è un accenno. No, no, no. Però mi piace molto, e ho sorriso quando l'ho letto, il modo in cui la diagnosi è stata fatta. Cioè, perché lo zio Ciccino è morto di cancro? La colpa era del nonno, che da bambino gli aveva permesso di piantare un noce. Quindi la sentenza era segnata sin dall'inizio. E allora, visto che tu posso certo, dire adesso qualcosa, non continuo, perché dico qualcosa. Questo è un fatto reale, poi te lo racconto se vuoi. Te lo racconto? Raccontiamola tutti. Allora, mio zio, che si chiamava Francesco, che noi chiamavamo non Ciccino ma Ciccio, è morto nel 1984 per un cancro. E l'altro mio zio, il fratello, era convinto che fosse colpa del noce. Allora, si dice che un bambino non deve piantare un noce, perché quando il noce supera il collo, il bambino, che è già un adulto, muore. E allora, quando mio zio seppe che il fratello aveva il cancro, prese la sega elettrica e andò a tagliare l'albero, pensando, poveretto, però guarda che bello, guarda che come vuol dire crederci veramente in queste cose, che tu veramente puoi fermare una malattia e salvare la vita a tuo fratello. Lui prese, io non ricordo, questo noce era bellissimo, enorme, aveva dei rami così fitti, e mi ricordo una volta eravamo in campagna, mio zio aveva preparato da mangiare facendo il fuoco con la legna, con l'acquadara, il grande pentolone, con le verdure raccolte lì nell'orto. Cominciò a piovere e non pioveva perché i rami erano fittissimi, noi stavamo sotto e lui l'ha completamente raso al suolo, ma non è servito a niente che lo zio è morto. Vedi che bene perché lui racconta questa passione alla Sicilia, perché ce l'ha proprio dentro, veramente forte. Però appunto, visto questo libro, mi è piaciuto l'esordio in cui tu hai iniziato questa serata. Questo libro l'hai scritto pensando ai tuoi studenti, sì, che sono ragazzi di oggi, nel 2019, che vanno a scuola come sei andato tu, e che in qualche modo devono guardare il futuro. Allora, non so se qualcuno dei tuoi studenti l'ha già letto, però ti chiedo che cosa ti augureresti di dire a questi ragazzi con l'esempio, perché non è una predica questa, è solo un esporre una vicenda ai ragazzi di oggi. Cosa potrebbero rubare da questo libro? Io vorrei che loro avessero desiderio di conoscere, imparare, di capire, di coltivare la curiosità e la voglia di crescere, che fosse accompagnata proprio dalla voglia di capire il mondo in cui si vive, di starci in questo mondo da protagonisti. Non mi va di scadere nel moralismo, però è certo che i giovani sono sempre meno protagonisti, sempre più chiusi in casa, sempre più davanti a Netflix, YouTube, social network. Questo romanzo è tutto per strada. Eravamo immersi quotidianamente, anche perché non c'era altro nella vita vera. Allora, se io così dovessi, ed è quello poi che dico in classe ai miei studenti, cioè io cerco di seminare la curiosità, spero di stimolare in loro la voglia di crescere. Crescere non è solo fare delle esperienze, anche perché noi nella vita non potremo fare tutte le esperienze, molte esperienze le possiamo sentire raccontate da altri, e quindi leggere per capire, per imparare a ragionare, credo che sia la cosa fondamentale. E poi tu ci hai detto, ragazzi, oggi sono davanti a qualcosa. Noi eravamo dentro. Il tuo diavolo era dietro. Ah, il diavolo ti costringeva a scappare. Il diavolo sì. Questa è una prospettiva che magari... Bella, mi piace questa, mi piace. Bene, noi abbiamo, come dire, esattamente centrato anche la dimensione temporale con una professionalità che vorrei... E non ci riconosciamo. No. Invece professionalità che avete... Dovrebbe essere. Innanzitutto vorrei quindi ringraziare Paolo Mazzucato. Gabriele. Vorrei ringraziare Giovanni per essere stato qui e per aver, come dire, portato in Alto Adige, Sud Tirol, più che il sapore della Sicilia, più che la sensualità della Sicilia, addirittura una vera esperienza siciliana che chiunque legga questo libro non potrà fare a meno di provare. Grazie Giovanni. Grazie.